Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Si chiama Robo Beetle ed è un nuovo microrobot descritto dettagliatamente in uno studio pubblicato su Science Robotics. Questo robot è simile nell'aspetto, come dice il nome, a uno scarafaggio. È stato sviluppato dagli scienziati dell'Università della California Meridionale ed è pesante, pensate, solo 88 milligrammi, quindi insomma meno di un decimo di grammo, è lungo 15 millimetri e ciò ne fa uno dei robot autonomi più piccoli e più leggeri mai creati. Robot di questo tipo potrebbero trovare utilizzo nell'ispezione di infrastrutture, nel monitoraggio ambientale o anche per attività quali l'impollinazione artificiale e vabbè, poi naturalmente anche nello spionaggio. Ma l'aspetto più interessante di questo oggetto è il sistema che utilizza per spostarsi questo micro robot, che è basato sull'impiego di metanolo come fonte di energia. Ne parliamo con Matteo Cianchetti, che è ricercatore dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Sant'Anna di Pisa, che è stato tante volte nostro ospite. Bentornato Matteo. Buonasera. Ti chiedo per cominciare di descrivere un po' meglio di come abbia fatto io l'oggetto e soprattutto di spiegarci come funziona questo nuovo sistema di locomozione. E allora, il microrobot di fatto è composto da quattro piccole zampette, di cui due possono essere attivate attraverso l'utilizzo del sistema di locomozione. E poi nella parte centrale del robot è presente un piccolissimo recipiente che appunto alloggia il metanolo, che è la sua fonte principale di energia. Ecco, questo robotino cammina usando solo le due zampe anteriori, è come se quelle dietro fossero paralizzate e lui si trascinasse. In realtà questo è il movimento del robot, no? Manda avanti le due zampette, esatto, si trascina un po' e ripete poi il movimento. Sì, di fatto il principio è legato soltanto al movimento delle zampe anteriori, che di fatto poi trascinano tutto il resto del corpo. Ecco, dicevamo di come funziona. Sì, allora il principio di locomozione è basato sull'utilizzo di un particolare metallo che si chiama lega memoria di forma, che è basato su un composto di nickel e titanio che ha la proprietà di potersi deformare quando è soggetta a del calore. E infatti questo è quello che viene sfruttato. Il metanolo, che vaporizzando e legandosi alla superficie della lega memoria di forma, sviluppa calore e di fatto fa deformare la lega. Questa deformazione viene poi riportata alle zampe anteriori, che appunto fanno sì che la locomozione avvenga. Quindi queste due zampette vengono alternativamente scaldate e lasciate raffreddare. Quando il metallo è caldo ha una certa forma, quando il metallo è freddo ha un'altra forma, infatti si parla per questo di materiale memoria di forma, no? Assumono proprio due configurazioni diverse a diverse temperature. Esattamente, quando il metanolo ha la possibilità di andare in contatto con la lega memoria di forma, poiché quest'ultima è ricoperta da platino, quando il metanolo entra in contatto con il platino avviene una reazione chimica che sprigiona energia, sprigiona sotto forma di calore, e questo calore è quello che di fatto poi attiva la lega memoria di forma e ne termina la contrazione. Perché è interessante, diciamo così, questa ricerca? Ma dal nostro punto di vista questa ricerca è interessante perché pone le basi per un'alternativa a quella che potrebbe essere una fonte di energia che può essere sfruttata a livello robotico. Nel caso specifico delle lega memoria di forma, in robotica l'attivazione è sempre determinata da uno stimolo elettrico che poi, quando la corrente passa attraverso il filo, si trasforma in energia termica. Il calore arriva, diciamo, da un accumulo sotto forma di energia elettrica, per esempio da una batteria. Invece in questo caso il calore è un calore diretto, diciamo, dovuto a una reazione chimica. Esatto, quindi la possibilità di avere una fonte chimica che non ha bisogno di essere convertita in energia elettrica per poi poter sfruttare, o meglio, determinare un aumento di calore, ci fa risparmiare a livello anche di pesi e anche di di costi e di quello che possono essere tutti gli elementi legati al trasporto di energia elettrica. Anche perché in un piccolo volume ci sta poca energia elettrica, ma ci sta tanta energia chimica, diciamo, no? Quindi il robot potrebbe avere un'autonomia superiore. Anche perché lo diamo un po' per scontato, no? Ma in realtà gli azionamenti dei robot sono ancora un settore nel quale si sta studiando molto. Sì, devo dire che in la robotica, specialmente l'attuatore, comunque tutto quello che riguarda i principi attuativi, sono ancora una parte della ricerca che è in forte sviluppo, perché non abbiamo ancora trovato un particolare principio che può essere usato di fatto in maniera omnipresente, come può essere il muscolo umano, cioè non abbiamo il corrispondente del muscolo umano, ecco, ancora. Ce n'è ancora da fare per arrivare a questo. Invece, quale ti sembrano degli aspetti magari da migliorare di questa tecnologia di locomozione? Ma diciamo che la prima cosa che, anche leggendo l'articolo, mi è parsa subito abbastanza chiara è l'elemento chimico, comunque la composizione della chimica che c'è alla base. Il metanolo che viene sfruttato come sorgente di energia non è facilmente maneggiabile, una sostanza che vaporizza molto facilmente, altamente infiammabile, quindi diciamo non è proibitivo, però comunque pone dei limiti all'utilizzo della tecnologia. Diciamo che con lo stesso principio, andando a studiare degli altri composti che possano essere maneggiati in più in sicurezza, sicuramente potrebbe avere comunque degli sviluppi e degli utilizzi più larghi, però su larga scala. Va bene, allora grazie Matteo Cianchetti. Grazie, buona serata. Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a lunedì. Buon fine settimana. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it